Savonarola, il frate che smascherò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, che morì poco dopo la disfatta di Caporetto, chiedendosi probabilmente che cosa ne avrebbero scritto i libri di storia e come la guerra sarebbe finita, con molti che la davano per persa, pensando che vincerla avrebbe fatto la fortuna del paese, e lette da me che sono nato molto tempo dopo il trionfo di Vittorio Veneto, chiedendomi se quel che sta scritto sui libri di storia sia quantomeno verosimile, perché comincio a pensare che quella guerra che molti danno per vinta fu in realtà una sconfitta e fece probabilmente la rovina del nostro paese. D'altra parte, l'Aquile non fanno guerra ai ranocchi e poi lo sanno tutti che chi ha da perdere fugge le brighe. Serio, capitolo 37. Dei mostri disumani. Ma la tregua che il popolo fiorentino attendeva per il cessare della peste fu rotta, prima di cominciare, da un fatto che mise la città intera in un disordine grandissimo e maggiore di quanti se n'erano veduti dopo il 94. Mentre che il Valori e il Dosinghi si adoperavano a rintracciare le file della congiura di Piero, sorpresero un tale Lamberto dell'Antella, fuoriuscito, che di nascosto se ne andava in una sua villa con indosso una lettera indirizzata al cognato, Francesco Gualterotti, che era allora dei 10. La lettera prometteva di rivelare minutamente tutte le trame di Piero e scoprire cose di somma importanza per la Repubblica. In verità egli poteva saperle perché era stato un antico e fedele partigiano dei Medici. Nella rivoluzione del 94 si trovava in prigione alle Stinche insieme con suo fratello Alessandro. Qui di nascosto ebbero molte speranze e incoraggiamenti da Piero quando si trovava in Roma, onde evasero dalla prigione. Ma nel presentarsi a lui furono ricevuti con singolare freddezza e ben tosto ebbero a sperimentare i suoi modi brutali. Così scrive lo stesso Lamberto, ci teneva in continuo moto per soddisfare alla sua smania di tornare in Firenze e poi ci trattava peggio che cani. A Piero de' Medici infatti non pareva di vivere quando non poteva opprimere o bistrattare qualcuno. Pur non di meno i due Antella sopportarono tutto e si trovavano ancora con lui quando egli si accostò alle mura di Firenze e quando ritornò a Siena. Quivi gli divennero sospetti e li fece subito imprigionare. Tale era poi la crudeltà di Piero, tale il suo animo verso così antichi e provati servitori che, partito da Siena, più volte mandò indietro una staffetta a Pandolfo Petrucci, capo e quasi padrone di quella Repubblica, a ciò li gettasse nel carnaio, prigione così orrida che non se ne usciva mai vivi. Il Petrucci però, sebbene tutto amico di Piero, non volle rendersene sicario e liberava i due fratelli a condizione che non lasciassero il territorio senese sotto pena di 2000 fiorini. Ma essi erano troppo pieni del desiderio di vendetta per mettere tempo in mezzo e subito che ne ebbero il destro fuggirono verso Firenze. Né a Lamberto parve vero quando fu preso e menato ai magistrati con la lettera indosso nel modo che abbiamo veduto. Gli otto, visto ed esaminato quel foglio, secondo il barbaro costume del tempo, misero subito alla corda il povero Lamberto e dopo averlo collato per ben 4 volte lo interrogavano capo per capo a ciò che dicesse la pura verità. Segnate le risposte vi trovarono compromessi cittadini così potenti e riputati che portarono l'affare innanzi alla signoria dichiarando di non voler prendere sopra di loro un giudizio così grave, ma la signoria rispondeva che solo ad essi gli statuti concedevano il giudicare le cause di Stato. Nondimeno, considerata la gravità del caso, furono scelti 5 arroti e 7 dell'ufficio dei 10 perché aiutassero gli 8 a continuare il processo. Si fece allora più minuto esame del fatto ed essendo stato promesso un generale perdono a Lamberto dell'Antella, questi mise in carta una lunga rivelazione nella quale faceva conoscere tutte le trame e tutti gli amici che Piero de' Medici aveva in Firenze. Dette anche sentore di un nuovo tentativo di congiura nel quale era stato promesso a Piero di farlo entrare segretamente in Firenze la notte del 15 agosto. Trovandosi moltissimi alla campagna, chi per la buona stagione e chi per il contagio, egli sperava di poter levare tumulto in suo favore con lo spargere pane e denaro nell'affamata plebaglia e col concederle il saccheggio di molte case dei ricchi, e in questo mezzo impadronirsi del palazzo e prendere in mano il governo della città. Era un pazzo di segno e troppo audace perché gli ardisse solo di tentarlo, pure quelle pratiche manifestavano l'animo suo e bastavano a dimostrare che la Repubblica versava sempre tra pericoli gravissimi. In mezzo a tali agitazioni, tutti quei 20 cittadini che dovevano compilare il processo, finito che ebbero l'esame, si strinsero a consiglio e fecero giuramento di non aver rispetto a persona di qualunque grado o condizione si fosse. Dopo di ciò ordinarono che la piazza fosse guardata da gente armata, che i condottieri si tenessero pronti con le loro genti d'arme per accorrere al bisogno, che niuno potesse uscire dalla città. Chiamarono ancora i fanti della signoria e, per non dare sospetto, fecero in nome di essa richiedere quei cittadini che venivano più compromessi dalle rivelazioni dell'Antella. Alcuni subito fuggirono, altri invece si presentarono e, compiuto finalmente il processo, risultò che 5 di quelli che si trovavano in mano dei magistrati erano colpevoli d'alto tradimento e dovevano, secondo le leggi, subire la pena del capo. Bernardo del Nero, vecchio di 75 anni, era per la sua autorità e prudenza principale fra loro. L'accusa contro di lui si restringeva veramente a questo, che avendo conosciuto la congiura non l'aveva rivelata, ma questa colpa era assai aggravata dall'essere stato in quei giorni appunto confaloniere della Repubblica. Seguivano poi nel processo i nomi di Giannozzo Pucci, giovane pieno d'ingegno, e di Lorenzo Tornabuoni, che era stimato in Firenze il fiore d'ogni gentilezza. Contro a costoro era grandissimo l'odio del popolo, perché, conosciuti per antichi partigiani di Fiero, di cui il Tornabuoni era anche parente, s'erano così bene infinti con l'andare alle prediche del frate che erano riusciti a farsi credere fra i più caldi dei suoi seguaci. Gli altri due accusati erano Giovanni Cambi, ricco mercatante, e Niccolò Ridolfi, capo della sua casa e anch'esso parente di Fiero. Messo termine al processo, i 12 cittadini aggiunti si ritirarono e gli 8 restavano nuovamente soli a pronunziare la sentenza. Essi, non volendo in alcun modo affrontare l'odio di tante e così potenti famiglie, tornavano da capo alla signoria, la quale di nuovo ricusava un carico che non le era imposto dagli statuti. Ma finalmente il gonfaloniere Messer Domenico Bartoli, vedendo questa biasimevole debolezza dei magistrati, i quali ricusavano di fare il loro ufficio per paura dei potenti, propose che si portasse la causa al giudizio del Consiglio Maggiore, a cui, secondo la nuova legge, bisognava andare per l'ultimo appello. Vi si opposero però gagliardamente i difensori degli accusati, dicendo non essere bene allargare così presto fra tanta moltitudine i segreti dello Stato e sottomettersi alla diversità di tanti pareri quando doveva bastare il giudizio dei principali magistrati. In sostanza, da un lato i magistrati si mostravano deboli a far l'ufficio loro e dall'altro gli accusati, temendo ugualmente le leggi e l'odio popolare, desideravano mandar la cosa in lungo e speravano che la elezione della nuova signoria dovesse rivolgere le cose tutte in favor loro. Essi avevano già dalla loro parte 3 dei signori, ed essendo riusciti a guadagnarne un altro in Michele Berti, parente di Bernardo del Nero, si trovavano ora con 4 voti padroni di impedire ogni deliberazione che non fosse andata a loro modo. Così ottennero l'intento, perché il giudizio venne rimesso alla decisione di una nuova pratica, fissata per il 17 d'agosto. Né questo era piccolo vantaggio, ogni giorno si avvicinava sempre più la nuova elezione. D'ora in ora si aspettavano dagli alleati imperiose lettere di raccomandazione. Piero dei Medici ingrossava sempre più le sue genti in Romagna e finalmente, essendo troppo manifesto che gli accusati erano condannati dalle leggi, essi non potevano sperare che nel tempo. Ma tutto questo era assai noto alla parte avversa, che voleva perciò venire subito alla conclusione, onde si prevedeva che la nuova pratica dovesse riuscire assai tumultuosa.